L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea e buon Ferragosto a tutti. Oggi 15 agosto 2012 vogliamo mandare delle cartoline, ovviamente delle cartoline dell'Italia. Per questo chiederemo ad alcuni ospiti di dirci quale paesaggio vorrebbero mostrare del nostro paese e chiediamo a voi di dirci che cartolina italiana mandereste dello spazio. E vi chiediamo solo per oggi di dirci le vostre scelte su Facebook alla pagina Italia vista dallo spazio o via mail a italiavistadallospazio@radio24.it. Cominciamo con le nostre cartoline tra pochissimo, ma prima posto numero 12 in attesa di assegnazione. Ieri vi abbiamo chiesto quale gioco potrebbe rappresentare l'Italia. Alla fine la scelta è caduta su un passatempo che è pieno di nostalgia ma che si difende benissimo anche attualmente. Infatti nello spazio manderemo un biliardino o un calciobalilla che dir si voglia, perché anche nell'epoca della tecnologia, della virtualità e del 3D ancora vive e lotta con noi negli stabilimenti, nelle manifestazioni estive, nel tempo libero degli italiani c'è ancora il biliardino. Posto numero 12, assegnato. Sapore di sale. Scegliere un posto come simbolo delle vacanze italiane e quindi degli italiani potrebbe sembrare solo una questione di gusto. Parlando ad esempio di località balneari, magari uno vuole solo scegliere tra spiagge calabresi o Cinque Terre, tra una gita a Ponza o a Ventotene o un soggiorno sulla costiera amalfitana. Ma in realtà le località balneari raccontano qualcosa di noi e soprattutto raccontano il periodo storico in cui siamo. Per esempio, è impossibile nominare un posto come Forte dei Marmi senza pensare all'Italia ottimista e spensierata degli anni 60, quella ritratta appunto in film come Sapore di mare o ricordata nell'eterno revival legato a quel periodo. Come allo stesso modo sarebbe impossibile scrivere una storia delle vacanze degli anni 80 e 90 senza citare le infinite discoteche di Rimini e Riccione e i pellegrinaggi che si facevano per vivere il mondo della notte verso la Riviera Adriatica. Perché anche le vacanze sono un segno dei tempi e quando tra qualche anno ricorderemo con nostalgia le vacanze degli anni 2000 e degli anni 10, dovremo per forza ricordare anche le vacanze in Salento, la pizzica, la musica popolare, un certo modo di fare vacanza sì, ma con l'atteggiamento e l'idea di chi comunque sa che al mondo c'è anche qualcosa di brutto e c'è anche qualcosa di più importante. Perché sembra facile, ma scegliere una vacanza italiana e quindi scegliere anche una cartolina è comunque una scelta di campo. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Questa puntata in cui parliamo del territorio italiano e delle nostre bellezze, di tutti i posti che poi diventano più, diciamo, noti e più citati proprio nel periodo estivo, abbiamo deciso di avere tra i nostri ospiti un geologo molto famoso per la sua capacità di parlare, di spiegare l'ambiente e la nostra terra. È con noi Mario Tozzi, benvenuto. Eccoci. Bentrovati. Mario, noi oggi in questa puntata di Ferragosto vogliamo mandare delle cartoline dalla nostra Italia, diciamo approfittando anche del fatto che probabilmente noi italiani, almeno questa è la mia impressione, ci ricordiamo della nostra terra, soprattutto in estate e nei periodi di vacanza, e di solito forse diamo un po' tutto per scontato. Ci ricordiamo soltanto d'estate che siamo sostanzialmente quasi un'isola nel Mediterraneo, no? Perché penisola, questo è 8.000 chilometri di coste, insomma ce ne vediamo solo d'estate purtroppo, perché magari in inverno avrebbero anche altri sapori. E infatti il mio paesaggio è proprio quello delle coste italiane in generale, anche se non sono tutte uguali, c'è una grande differenza fra, che ne so, quella di Lignano, Sabbe d'Oro o Rimini rispetto a quella sarda o calabrese o delle isole, però quello è il mio paesaggio, anche se lo vedo in una chiave un po', come posso dire, insomma, moderna o postmoderna, nel senso che sarebbe un patrimonio inestimabile anche selvaggio, eppure solo il 29% delle coste italiane è intatto, tutto il resto è tremendamente costruito, e noi ci stiamo bene in questa sequenza di costruzioni sulle spiagge. E questo insomma lo vorremmo approfondire, perché in fondo poi la scelta che i nostri ospiti fanno è sempre un po' un messaggio, nel senso che tu vedi in questa cartolina che potremmo mandare quasi un segnale d'allarme, un memo a noi italiani, non solo per dire guardate che cosa stiamo facendo? Sì, esattamente quello che voglio dire, nel senso che abbiamo un così grande patrimonio costiero che però non tendiamo a godere, ma piuttosto a sfruttare. Insomma c'è una certa differenza di termine, perché guardiamo quello che succede nelle coste tirreniche del Lazio meridionale, della Campania, della Calabria, in tutta la Sicilia, ma poi anche risalendo su per la Puglia, ma anche a nord, la Liguria per esempio. Ecco, quel passaggio fra continente e oceano, che è la costa, è orlato da una serie di costruzioni che, diciamo, la maggior parte dei casi sono brutte, orrende, molto spesso abusive, moderne, messe lì a caso, senza infrastrutture, senza servizi, che deturpano il litorale, il paesaggio, non ce lo fanno godere bene. Purtroppo io devo cominciare da questo aspetto qui, perché altrimenti se non ci fermiamo in questa furia costruttiva devastatrice, fra un po' non ci rimarrà nemmeno più quel 29% che ricordavo prima di libero. Oltretutto tutte queste coste sono tutte quante, come potrei dire, privatizzate da stabilimenti balneari, che in Italia sono circa 10.000, e quasi nessun altro posto del Mediterraneo c'è una colonizzazione così forte delle spiagge, che sono invece molto più spesso libere negli altri paesi. Io trovo che qui noi ci abbiamo perso qualcosa, non ci abbiamo guadagnato, insomma, in questo rapporto con il costruito sulla costa. Va bene Mario, io ti ringrazio. Allora proviamo a fare questa cartolina, diciamo, a mostrare le nostre coste, ma anche a ricordare che forse ne stiamo abusando un po' troppo e che dovremmo pensare anche al futuro. Ecco, questo è il mio saluto, un'Italia che possa tenere quello che c'è di selvaggio, di incontaminato, quello che c'è, non è che possiamo permetterci di buttarlo giù tutto con le ruspe, ma insomma questa cartolina che c'ha qualche ombra e qualche luce, speriamo di conservare queste luci, che sia un messaggio per tutti quanti. Grazie Mario Tozzi per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Un'altra cartolina nella nostra puntata speciale di Ferragosto, ce la facciamo mandare, o meglio ci facciamo aiutare a mandarla, da un redattore del National Geographic Italia. È con noi Michele Gravino, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Michele, che oltre appunto a lavorare per il giornale, hai anche un blog sul sito del National Geographic che si chiama Viaggi da Fermo, e secondo me è un'idea bellissima. Sono itinerari e racconti tutti basati sull'esplorazione con Google Street View. Sì, con Google Street View, con le mappe, con tutti questi ritrovati online che ci permettono di esplorare posti dove non siamo stati e dove probabilmente non saremo mai. Io ho fatto una cosa che penso facciano tutti per divertimento, andare a vedere come appare in rete un posto che può essere il sottocasa della tua ex fidanzata, così in un attacco di nostalgia, oppure la casa dove andavi da bambino al mare, dove non sei mai più tornato, oppure il Polo Sud, la base antartica avvolta nel ghiaccio dove vanno gli studiosi italiani. E c'è secondo me una speciale qualità di queste immagini, è come se le vedessimo questi posti, come se ci proiettassimo direttamente lì in un momento casuale. Questa casualità secondo me li rende più veri, e a partire da queste immagini poi cerco di raccontare delle storie, di fare delle divagazioni, di segnalare delle notizie di attualità. Insomma è questo lo spirito del blog. Poi effettivamente tu dicevi del particolare momento, perché questi strumenti ti danno l'impressione di vederli in tempo reale, ma poi non è vero. A me è capitato di vedere dei posti in cui c'erano dei lavori in corso di 2 anni fa, che magari invece no, ci sono ancora, o di trovarli al buio. buio, io cercavo un posto, però da lì la macchina era passata di notte, quindi non si vedeva niente, c'era questa visione romantica ma poco utile. Sì, anche quello è curioso, ma per esempio, è un po' che non vado a controllare, ma per esempio un caso impressionante è l'Aquila, dove siccome le Street View montano foto scattate in momenti diversi, c'è un punto del centro dell'Aquila in cui a un passo vedi la città prima del terremoto, cioè quindi con le macchine che passano, con la gente che guarda le vetrine, il campanile, la torre ancora in piedi, e fai un passo in avanti e la città è deserta, c'è stato il terremoto, sulla torre ci sono le impalcature, non ci sono più macchine che passano. Questo è abbastanza impressionante, ma questo dà anche un po' un senso di viaggio nel tempo, anche oltre che nello spazio, usando qualcosa come Google Street View. Senti, la cartolina che tu ci vuoi mandare è di un posto che hai visto dal vero o l'hai visto tramite, diciamo, l'occhio di internet? No, questa l'ho visto davvero. Allora, prima ti faccio un'altra domanda, che è: qual è il posto, anche se devo dire che questa dell'Aquila era molto forte, qual è, diciamo, una chicca, un posto che hai scoperto tramite appunto l'occhio del web? Ma pure questo l'ho messo proprio come primo post del blog, un'immagine abbastanza impressionante, questa non Street View ovviamente, ma dall'alto, come dicevo, è proprio la base Concordia, che è una base italo-francese che sta in Antartide, vicino al Polo Sud, vicino, per modo di dire, sono migliaia di chilometri, ma ovviamente l'Antartide è deserto, e vedi questo gruppo di edifici che sono circondati dal nulla, dal bianco totale del ghiaccio, tanto che appena sali un po' con lo zoom non vedi più nulla, e sembra una base deserta in un altro pianeta, sembra uno scenario da film di fantascienza, invece lì c'è gente, è lì che si lavora. Insomma, anche quello è molto impressionante. Sono le cose che favoleggiavamo dai fumetti o dai film come La Cosa, cioè, che non pensavo mai di poter vedere. E invece la cartolina dell'Italia che hai scelto, qual è? Guarda, io voglio essere molto banale, nel senso, io scelgo le campagne toscane, a Val di Chiano, alla Val d'Orcia, in provincia di Siena. So che negli ultimi anni ci sono attaccate a questi paesaggi un po' di fastidio, perché ricorrono spesso in certi film italiani, sono un po' il simbolo del posto dove l'intellettuale di sinistra ricco va a passare le vacanze, nel casale in Toscana, in mezzo alla natura, eccetera. Che basta dire cose tipo Chiantyshire o Capalbio, subito si azzecca. Dopodiché uno ci va e vede che sono posti stupendi, ci sono queste colline ondulate, non c'è un abuso edilizio nel raggio di 100 chilometri, non c'è un grammo di cemento armato nelle case, ci sono questi colori stupendi, queste colline dolci che si estendono a perdita d'occhio. E insomma, sono posti bellissimi che la gente di lì ha saputo conservare, magari approfittando, magari anche sfruttando i turisti, facendogli pagare a peso d'oro questi casali e tirandosela un po' con la puzza sotto il naso, ma ci sono modi molto peggiori di sfruttare i turisti. E allora, diciamo così, può essere una cartolina che ci ricorda che ci sono alcuni posti bellissimi nonostante l'antipatia per altre persone che sappiamo andarci. È sempre bene da ricordare. Grazie Michele Gravino per essere stato con noi, grazie per la tua cartolina. Grazie a te, grazie a voi, ciao. Ciao, sono Maurizio Crozza e voglio dirti una cosa. Ogni anno la Toscana è depredata dalla sua terra stessa. Ogni giorno un po' di Toscana muore. Forse per gli incendi? No. Forse per i saccheggi? No. Forse perché? No. La Toscana muore perché ogni giorno qualcuno porta via un sasso. Se ognuno di noi portasse via un sasso. E questo era un accorato appello di Maurizio Crozza per salvare la Toscana, in un contenuto in un disco di Aria le Storie Tese. Poi qualche anno dopo Crozza fece un altro appello in un altro disco, in cui disse: tranquilli, la Toscana è tutto a posto, ci abbiamo risolto, non vi preoccupate più. Noi ci fermiamo per pochissimo e torniamo tra poco con la nostra puntata ferragostana dell'Italia vista dallo spazio. L'Italia vista dallo spazio. Questa è l'Italia vista dallo spazio, la nostra puntata speciale di Ferragosto. È ovvio che noi non abbiamo tempo per esplorare tutti i luoghi più belli dell'Italia, ma come potevamo non considerare la possibilità di mandare una cartolina dalla Sardegna? È per questo motivo che siamo al telefono con Antonio Maccioni, che è l'autore di 101 tesori nascosti della Sardegna da vedere almeno una volta nella vita, libro pubblicato da Newton Compton Editori. Benvenuto Antonio! Ciao Achille, buon Ferragosto a tutti i radioascoltatori. Allora, la prima cosa che volevo chiederti è se la Sardegna ha dei tesori così nascosti, nel senso che se è un posto che è talmente esposto in televisione, nei tutti i servizi, ma ha comunque degli angoli da esplorare che ci sfuggono. Beh, ha davvero, secondo me, dei tesori nascosti che vanno al di là delle cartoline più conosciute in un certo senso, anche perché poi le località più note a loro volta nascondono qualcosa di sfuggente agli occhi distratti di chi arriva in Sardegna magari per trascorrere una vacanza spostandosi da una località all'altra. Io credo che veramente trovandosi nei luoghi con occhi attenti è possibile cogliere delle chicche davvero che sono impensabili. Questo succede in molti territori, in molte zone dell'isola. Io penso in modo particolare alla costa occidentale, che è un po', se vogliamo, anche la costa meno battuta dal turismo di massa o comunque dal turismo che la Sardegna ha conosciuto negli ultimi anni. È da quelle parti dove c'è, se vogliamo, anche una carenza infrastrutturale cronica che coinvolge i sardi stessi. È proprio lì, secondo me, è possibile andare alla ricerca di tesori che sono davvero delle cose impensabili. Antonio, tu hai, diciamo, inanellato 101 tesori in questo libro, li hai anche divisi tra acqua, terra, fuoco e aria. E qual è quello che scegli oggi per noi? Ma io per voi scelgo un tesoro che secondo me richiama in qualche modo le altre bellezze della Sardegna, ed è il deserto di Piscinas. Un po' pensavo perché rappresenta e perché riassume gli elementi, quattro elementi, ma non solo, nella sua potenza e nella sua bellezza. Diamo un po' di riferimenti, dove si trova? Diamo dei riferimenti e ci troviamo sempre sulla costa occidentale, appunto nel sud dell'isola. Siamo dalle parti di Arbus, lì c'è un territorio che si chiama Costa Verde, un territorio splendido dove c'è un mare che talvolta diventa davvero violento ed è meta di surfisti che arrivano da ogni parte del mondo. Lì si trova un deserto che è appunto il deserto di Piscinas, così come è noto, che è uno dei deserti più grandi d'Europa, ed è singolare pensare che in Sardegna ci sia un deserto che davvero si estende per alcuni chilometri quadrati. Si arriva a 4-5 chilometri quadrati verso poi il territorio di Arbus. Chiaramente il deserto di Piscinas è abbastanza noto, però trovandosi lì davvero in prima persona, magari in una notte di primavera, è possibile ammirare delle bellezze che sono davvero dei tesori nascosti, dalla piccola macchia mediterranea che si diffonde tra le dune fino appunto a un cielo davvero mozzafiato che si può ammirare nella sua interezza, vista appunto la grande distesa. Ed è davvero un'esperienza che io consiglierei a chi dovesse arrivare da molto lontano, diciamo. Al di là della bellezza, qual è il messaggio secondo te che questo luogo manda? Che cos'è? Cosa scriveremmo dietro alla cartolina? Ma io scriverei che questo luogo può davvero testimoniare la forza degli elementi che hanno fatto molte delle bellezze, che hanno dato vita a molte delle bellezze della Sardegna. In questo chiaramente la Sardegna è comune a ogni angolo del mondo, però è anche un posto di storia, anche perché ci troviamo in prossimità di stabilimenti che un tempo erano dedicati all'estrazione di minerali, miniere ormai dismesse fino ai primi, che hanno lavorato fino ai primi anni 90, per alcuni versi hanno portato anche delle conseguenze nel territorio. Siamo però in un periodo in cui si tenta di ristabilire di rivalutare la zona, anche le vecchie strutture che possono avere degli impieghi turistici o comunque validi anche oggi. Quindi il messaggio è quello che davvero a piscina, se è possibile, vedere ogni bellezza di questa terra. Antonio, l'ultima cosa che ti chiedo, visto che a volte cartolina ha anche un significato un po' negativo, insomma un po' di finzione, vorrei approfittare di te per chiederti se c'è qualcosa della Sardegna che non ti piace, che secondo te dovremmo lasciarci un po' alle spalle. Ma io appunto rimarrei sempre qui, rimarrei sempre a Piscinas, anche perché la presenza degli stabilimenti dedicati all'estrazione di minerali e le miniere sono in qualche modo il simbolo dei sacrifici di molte generazioni di quella terra e quindi dell'isola tutta, anche perché lì si arrivava davvero da ogni angolo della Sardegna per lavorare. Molti uomini hanno sacrificato la loro vita in quella terra, per alcuni versi anche dal punto di vista geografico, ambientale, è possibile notare delle conseguenze che però, ripeto, gli enti locali tentano di monitorare, di risolvere. L'esempio è quello del fiume Rosso, un fiume che poi è il rio Piscinas, nel quale confluisce un altro piccolo rio che si dice passi in prossimità di pozzi dismessi, acquisisca in questo suo passaggio dei minerali, dei metalli pesanti che poi gli portano una strana e insolita colorazione rossa. E quindi nella bellezza credo singolare, come è possibile trovare anche una nota, se vogliamo, di dolore, se vogliamo così chiamarlo, ecco. Va bene, grazie Antonio per essere stato con noi. Ricordiamo il tuo libro 101 tesori nascosti della Sardegna, da vedere almeno una volta nella vita, e grazie, buon Ferragosto a te. Grazie a voi, buona serata a tutti. Saluti dal mare, saluti dal mare, saluti dal mare, non penso che a te. In questa puntata in cui cerchiamo la cartolina italiana abbiamo deciso di chiamare anche chi si occupa di viaggi e di spostamenti in tutto il mondo e non solo in Italia. Massimo Canizzario al telefono con noi, è responsabile del sito zingarate.com, viaggiatori non turisti. Benvenuto Massimo. Ciao, saluto a tutti. Allora, voi vi occupate di viaggi, destinazioni varie in Italia e nel mondo. Suppongo che tu abbia sotto l'occhio tutti i giorni gli input necessari per dirci quale potrebbe essere una cartolina italiana adeguata da mandare nello spazio. Beh, più appunto gli input sono ormai tutti spostati non più sulle cartoline cartacee, ma ormai sempre di più su Facebook e Instagram, cioè la cartolina si fa in tempo reale, si tagga immediatamente l'amico per farlo o rosicare perché si sta in un bellissimo posto o per invitarlo o per far vedere il piatto che si è appena mangiati da qualche parte, cioè per cui le cartoline si fanno così ormai, cioè sono in tempo reale e chiunque le può vedere dal proprio smartphone in giro, no? E questo ha cambiato un po' il concetto della cartolina, quale potremmo mandare oggi? Ma guarda, io, cioè, la cosa che ormai invece è molto divertente, che accade da anni, è che un mio amico a tutti quelli che stanno partendo chiede di farsi mandare la cartolina più trash e più ridicola che riescono a vedere nel loro viaggio. E questo diventa anche un viaggio nel viaggio, cioè tu parti e vai a cercare la cartolina un po' più assurda per mandargliela. Io penso che prima o poi lui scriverà un libro, perché ormai sta raccogliendo cartoline trash da tutto il mondo, e questo secondo me è un modo divertente ancora di, diciamo, francabollare qualche pezzo di carta e metterlo in qualche cassetta quindi, della posta. Quindi la cartolina italiana che mandiamo è una cartolina trash, tipo ad esempio? Ma guarda, adesso stanno un po', sono un po' diminuite, ma c'era un fenomeno negli anni Ottanta, secondo me, che era divertentissimo, cioè di raffigurare anche località, diciamo, super familiari, super tranquille, con delle signore, cioè signorine discinte, eccetera, in pose molto hot, e che sembravano chissà che promettere, quindi che ne so, a Francavilla l'estate è più calda che mai, insomma, no? E tutti cosa... i turisti che andavano una volta di Francavilla o Bellaria esatto. Alla ricerca di, o Cupra alla ricerca di queste signore avvenenti, manco fosse Ibiza. Esatto, esatto. E adesso è un po' più difficile trovarle, però secondo me è proprio quello, è divertente. Facciamo così, se ne troviamo una, mandiamo quella nello spazio. Esatto. E probabilmente qualcosa dell'Italia lo dice. Grazie a Massimo Cannizzaro. Ciao, ciao a tutti. Meglio stasera che domani, oh my. Domani chi lo sa, perché sarà. La canzone che sentite è Meglio stasera ed è tratta, almeno in questa versione, dal film La Pantera Rosa, un film girato tra Rocca di Papa, nei Castelli Romani, e Cortina d'Ampezzo. C'era Peter Sellers a fare il mitico ispettore Clouseau, era il 1963 ed erano tempi in cui probabilmente girare a Cortina era un atto di esotismo incredibile per il cinema americano. Una ventina d'anni dopo, Cortina era invece il set del primo Vacanze di Natale, capostipite dei cinepanettoni e simbolo dei ricchi degli anni Ottanta, interpretati dall'indimenticabile e indimenticato Guido Nicheli, che in quel film si vantava di aver guidato da Via della Spiga a Milano a Cortina in 2 ore, 54 minuti e 27 secondi, aggiungendo nel suo anglo milanese che Alboreto is nothing. Sono passati altri 30 anni e i cinepanettoni hanno fatto il giro del mondo e sono tornati forse per morire al punto di partenza. Cortina non è più una meta cinematografica, ma è a suo modo un simbolo di qualcosa, anche se di qualcosa di diverso, grazie a un ormai storico blitz della Guardia di Finanza che ha fatto discutere, ma che magari tra qualche anno ricorderemo come un momento storico per il nostro paese, chi può dirlo? Per cui non è detto che da questo Ferragosto porteremo in ricordo una cartolina, magari tra i ricordi più cari conserveremo uno scontrino. Questa puntata finisce qui, grazie a Valerio Rocchetti per essersi occupato della parte tecnica, grazie ad Antonello Migliaccio per la redazione, noi torniamo domani pomeriggio alle 16.30 da Achille Corea, grazie a tutti voi e buon Ferragosto. Posto numero 13. In attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.